Radio 24 Reportage. Un tuffo nell'archeologia. Viaggio nel mare protetto del Golfo di Napoli. Di Roberta Pellegatta. L'aria marina più bella d'Italia, questa qui, alla Gaiola. C'è una magia, un'energia speciale, capito? Dovuto al rapporto proprio con il mare. Si parlasse di sto mare, quanta cosa avria contato. Il nostro viaggio sott'acqua, tra le aree marine protette della Campania, comincia da qui, dalla Gaiola, o meglio, dall'area marina protetta, parco sommerso di Gaiola. Qui il mare trasparente, le falesie di tufo giallo, la macchia mediterranea ti fanno sentire su un'isola. Invece il centro di Napoli è poco distante perché la Gaiola è incastonata tra il borgo di Marechiaro e la baia di Trentaremi, a ovest del Golfo. È uno di quei posti dove la natura e l'opera dell'uomo, in questo caso vestigia romane, si integrano perfettamente in un'armonia che rimane intatta. Si tratta dei resti di ville marittime con teatri, terme, approdi, ninfei e peschiere visibili sopra e sotto il mare. La Gaiola, a partire dagli anni Ottanta, ha vissuto un declino durato 30 anni, la fine del degrado nel 2002 con l'istituzione dell'area marina protetta e poi nel 2005 grazie alla nascita del centro studi interdisciplinari Gaiola Onlus e grazie al centro che, oltre a prendere il sole, ci si può immergere con le bombole o anche solo con maschere e pinne oppure godere dei resti romani sommersi navigando su un battello dal fondo trasparente. Ancora Pasquale, napoletano doc incontrato per caso la Gaiola, che ha conosciuto l'area prima e dopo il recupero. Qui prima era un po' abbandonato, il mare è sempre stato bello così, solo che era frequentato da brutta gente e non era guardato così. Questa è una riconquista, questo è un piccolo paradiso, grazie anche al centro qui è rinato tutto. Fanno snorkeling che si vede tutto il parco sommerso che c'è sotto. Gli antichi romani sapevano scegliere i posti in cui andare. Questo è il luogo migliore del mondo. Si accorge tutto che l'acqua succede. A dire il vero, poco distante da quello che Pasquale considera il posto migliore del mondo, esiste un'altra eccellenza, un altro luogo che i romani d'età imperiale scelsero per le loro lussuose vacanze, lasciando sotto e sopra il mare testimonianze di quello che fu un vero e proprio centro di villeggiatura. Stiamo parlando del parco sommerso di Baia, che si estende nel cuore del Golfo di Pozzuoli, specchio di mare dei Campi Flegrei. In quest'area, nei Campi Flegrei, che siamo in una zona di origine vulcanica, dove c'è questo fenomeno chiamato bradisisma, che la terra sale e scende rispetto al livello del mare, ha fatto sì che oggi i fondali conservano un'intera città di epoca romana, perché si deve sapere che l'impero romano aveva scelto questa località per le proprie vacanze estive. Immaginate l'importanza del luogo. Per venire in quest'area in vacanza bisognava essere almeno senatore. A parlare Vincenzo Maione del Centro Sub Campi Flegrei, che si occupa del turismo subacqueo nel parco sommerso archeologico di Baia, divenuto area marina protetta nel 2002. Un ambiente, quello di Baia, dove stupisce la simbiosi tra storia dell'uomo e vita marina. In più, Baia offre la possibilità unica di vedere mosaici romani originali sommersi. Vedere un mosaico sott'acqua è l'unico posto sul pianeta attualmente dove è possibile vederlo e attira persone di tutto il mondo, perché non bisogna essere per forza subacquei per visitare questi luoghi, perché sono delle profondità accessibili un po' a tutti, andiamo dai 4-5 metri ai 12 metri di profondità, e quindi questo permette anche con lo snorkel di vedere il mosaico, le statue, le colonne, e quindi attira tantissime persone. No, non cercate lontano. Indirizzati dalle guide di AIGAE, l'associazione guide ambientali escursionistiche che hanno collaborato con la regione Campania nel presentare alla stampa le aree marine protette regionali, ci spostiamo verso l'altra parte del Golfo di Napoli, fino a raggiungere la penisola sorrentina. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. Qui troviamo l'area marina protetta più longeva della Campania, quella di Punta Campanella. Istituita nel 1997, prende il nome dal promontorio che guarda i faraglioni di Capri e divide il Golfo di Napoli da quello di Salerno. Il parco marino, con i suoi oltre 31 km di costa, attraversa la penisola sorrentina e la costiera amalfitana da Sorrento a Positano. Qui vennero Micenei e Greci, poi, inutile dirlo, i Romani, che costellarono con le loro ville l'intero tratto di costa. Sulla nota bellezza di questo pezzo d'Italia è superfluo dilungarsi. Quello che non tutti sanno è che è altrettanto affascinante ciò che si trova sotto il mare di Punta Campanella. Gianluigi Di Maio guida i GAE e strutture subacquee nel parco marino protetto. Ma l'area marina protetta di Punta Campanella è un'eccellenza, cioè uno dei fondali più belli della costa italiana. Morfologicamente è una caratteristica, visto che tutto il parco marino è fatto da falese, le falese che vediamo fuori dall'acqua continuano anche sott'acqua e questa morfologia permette a delle specie, vengono chiamate sciafile, quelle che non amano tanto la luce, di svilupparsi maggiormente rispetto ad altri fondali. Quindi queste falese permettono la crescita di alcune specie endemiche proprio della zona, come possono essere gli Astroides, ovviamente diciamo i coralli. Quindi abbiamo queste bellissime pareti di coralligeno. Purtroppo qui viviamo il problema della pesca illegale del dattero, una specie di mollusco che cresce all'interno della roccia. Per pescarlo si è costretti a distruggere la roccia. Distruggendo la roccia si distrugge il substrato di tutte quelle specie per cui il parco marino è conosciuto. Il problema è che spesso un bracconaggio fatto nel Parco Nazionale d'Abruzzo è visibile a tutti e quindi la coscienza ambientale delle persone è maggiore. Sott'acqua, non vedendolo, nessuno lo conosce, la coscienza ambientale di quello che c'è sott'acqua non esiste. Questo è il motivo per cui si dovrebbe spingere, o i parchi marini dovrebbero spingere allo snorkeling, all'attività subacquea. Chi te nomma rossa, non te ne niente. Chi scende sotto il mare, come Gianluigi che abbiamo appena sentito, sa che immergersi non è solo emozionante, divertente, istruttivo, è anche utile. Frequentare, amare e conoscere il patrimonio delle nostre aree marine protette significa anche aiutare a preservare e a sensibilizzare. Ha bisogno del contributo dei visitatori e degli appassionati, in particolare la regione Campania, reduce da un'estate a dir poco difficile, alle prese con le conseguenze degli incendi sul Vesuvio e del terremoto di Ischia. Ed è proprio qui che andiamo adesso, sulla più grande delle isole del Golfo di Napoli. Riportare alla luce la vecchia città. Italianaria è importante. Il nostro scopo è quello di creare un percorso subacqueo. Siamo a Ischia, nella baia di Cartaromana, lo specchio di mare in cui si riflette il castello aragonese davanti al borgo di Ischia Ponte. Da un gommone, appena emersi dopo uno scavo archeologico subacqueo, ci parlano uomini e ragazzi ischitani, figli e nipoti di pescatori, ora operatori turistici. È proprio grazie a loro che l'antico insediamento romano di Enaria, lentamente a Ischia, sta tornando la luce, pur restando sott'acqua. Riuniti nella società marina di Sant'Anna, sotto la direzione della soprintendenza archeologica, dal 2011 hanno infatti deciso di diversificare il loro lavoro e cercare la storia sotto il mare. Tutto è partito da Giulio Lauro, operatore turistico. L'idea è mia, fortemente voluta da me, è venuta che portando i turisti in giro per il mare, dove all'inizio degli anni 70 furono trovati dei lingotti in più un po' su quella baia, nel parlare quotidianamente con i turisti, in me nasceva sempre la domanda: perché non scavare, perché non trovarla? E con l'aiuto loro, che mi sono stati vicini, abbiamo organizzato un po' la richiesta alla soprintendenza. Fortunatamente la soprintendenza ci ha ascoltato e dal 2011 con l'area marina anche abbiamo iniziato gli scavi. Con Giulio al progetto Navigando verso Enaria collabora anche il figlio Gaetano Lauro, determinato a portare sull'isola un turismo di tipo culturale oltre che termale e balneare. Ogni giorno che scendiamo è la riscoperta di nuove cose, cioè riportare alla luce la vecchia città di Enaria. Per il momento abbiamo iniziato con un piccolo molo, un approdo, poi speriamo di trovare tante altre cose. Gli scavi archeologici nella baia di Cartaromana di Ischia si trovano nell'area marina protetta Regno di Nettuno, istituita nel 2007. A causa dei vincoli non vi si può immergere, ma gli scavi sommersi sono visitabili attraverso visite guidate su una barca dal fondo trasparente. Ci siamo andati accompagnati dall'archeologa che dirige gli scavi a 6 metri di profondità, Alessandra Benini. L'importanza di questo lavoro è che per la prima volta stiamo restituendo a Ischia la sua fase di età romana, che era fino ad oggi sconosciuta. Questi scavi per la prima volta ci permettono di avere la certezza che anche Ischia abbia avuto una fase romana consistente, importante. Al momento Ischia era solo greca. A lavorare perché tutte e 6 le aree marine protette della Campania uniscano gli sforzi per promuovere un'offerta integrata a partire proprio dal patrimonio sommerso è Antonino Miccio, direttore dell'area marina di Punta Campanella e pro tempore anche di quella di Regno di Nettuno, area protetta che oltre ad Ischia copre Procida. E proprio sull'isola di Arturo andiamo a terminare questo viaggio risalendo però dall'acqua al cielo. È impossibile infatti chiudere questo viaggio tra i luoghi protetti del Napoletano senza invitarvi a Vivara, isolotto a mezzaluna collegato a Procida da un ponte pedonale lungo più di 100 metri che solo di recente è tornato visitabile dopo 15 anni. Nel 2002 Vivara era stata infatti chiusa al pubblico pur essendo una riserva di Stato. Da 6 mesi però procidani e turisti, prenotandosi sul sito del comune di Procida, possono andare con visite guidate sull'isola anche se per ora solo nei fine settimana. Sull'isolotto sono in corso scavi archeologici ma per ora chiusi al pubblico. A Vivara dovremo dunque accontentarci di godere della flora e della fauna perfettamente preservate grazie all'assenza per anni di interventi umani. La guida ai GAE, Nino Martino. Vivara è uno dei posti più importanti nel Mediterraneo per la migrazione degli uccelli marini e per la nidificazione di molte specie marine e della macchia mediterranea. Quindi è un isolotto molto importante. Ci sono 4-5 isole di questo genere che in Italia garantiscono la sopravvivenza di queste specie. Quindi un'oculata gestione deve far sì che gli umani possano godere di questo rispettando i valori ambientali. Che meraviglia tutto questo mare, mare, mare, mare, mare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.